campo con un 4-4-2, fiducia, compagno Mirko, compagno Francesco, broccato Schicchi, linea di centrocampo formata da Villafranca, D'Amico, Geraci, Castiglione, linea offensiva da Cane, Cicero. Disponibili in panchina sono Giustiniani, Gugino, Aiello, Zangara, Ferio, Barone e Culotta. I disponibili di oggi sono Milia, Lo Piccolo, Errante e Puccio. Il compito della squadra varese oggi è molto difficile, quello di fermare l'armata, lì è l'armata in Nutella, che in queste prime tre giornate è riuscita a conquistare 7 punti e a portarsi in prima in classifica col Sant'Agata. Ricordiamo che in casa il Cefalù ha pareggiato per 1-1 contro il Ligia Virtus. La squadra varese quindi è chiamata a una sfida molto importante, presso i giocatori si stanno riscaldando aspettando la chiamata dell'arbitro. Comunque sia, il mister Minutelli è fiducioso in questa partita, ha richiamato moltissimi i suoi giocatori sperando di non fare più passi falsi come quello che è stato contro Ligia Virtus, visto che la partita è stata completamente dominata dalla squadra cefalutese, soltanto che è riuscita soltanto a portare a casa un pareggio conquistato al 93esimo minuto da Cicero. La terna arbitrale è formata da contraffatto dell'arbitro contraffatto di Catania, i suoi assistenti sono Avolio e Paolo. Vediamo che ora la squadra sta iniziando a riscaldarsi ancora, c'è un po' di ritardo, vediamo un attimo. Per una giornata comunque di sole, un po' di vento molto fastidioso, speriamo che non caratterizzerà la partita. Gli spalti sono abbastanza pieni, vediamo anche molta gente, qualche tifoso dell'ST Cefalù si è venuto per incitare qui la squadra. Vediamo che il portiere Fiducia inizia a caricare i suoi, cercando di dare il giusto sprint per una partita che può rivelarsi molto importante quest'oggi. Vediamo che sia l'allenatore della squadra forense, Miceli, molto ha detto in precedenza della partita, ci ha detto ai nostri microfoni che era molto difficile per una serie di ragazzi, anche se sa che non sarà molto facile. La squadra forense, i colori sociali del Cefalù sono bianco con la striscia gialla al lato, mentre per la Fondorese la maglietta sarà blu, con il completino sarà completamente blu. Aspettiamo ancora l'arbitro che sta discutendo al momento con i due capitani e speriamo che inizia il più presto possibile la partita, vediamo un po'. Per il momento stanno dialogando un po' tutti, vediamo quello che succede. L'arbitro, via. Se ti va, vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole. E io confino a nord con blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi, vengo a nascere nella tua testa libera. Io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Più il mare tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera, e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più, scegli me tra i tanti, scegli me. CRM Sport. Bentornati alla partita, valevole per il quarto partita per della promozione tra Spada Forese e l'SD Chapalù. Durante la canzone la partita è iniziata, inizia subito con la Spada Forese che ha cercato di mandarvi in avanti, ma con un errore, con un passaggio sbagliato hanno buttato fuori. Adesso è Fiducia che raccoglie palla. Vediamo adesso i difensori che iniziano a smarcarsi. Fiducia va a rinvio lungo. La passa a viene intercettato però Cicero, viene passare la palla però viene a finire sulla palla laterale. La va a raccogliere Pino Brocato che cerca qualche compagno libero. Vediamo un po' come va. Ecco Cicero che la passa lunga a Geraci, però ancora una volta il difensore della Spada Forese prende la palla e la passa al suo compagno. Attenzione, ancora però il Cefalù che è in posizione difensiva prova a raccogliere palla, ma un errore sbagliato della Spada Forese regala un'altra rimessa laterale per il Cefalù. Va Pino Brocato alla rimessa laterale che la passa lunga per Cicero. Ancora però un cambio di fronte da parte della squadra, però Totocane subisce fallo dal numero 4 della squadra di casa, Scibillia Salvatore, ed è punizione. Alla battuta va Geraci che cerca, che mette in posizione il pallone a terra e la passa lunga a Totocane che stoppa di petto dal limite dell'area, fa partire un tiro che però si spegne sul fondo non lontano dal portiere. Andrà la ripresa dell'azione Crisafulli, sta cercando e posiziona lentamente la palla al limite dell'area piccola, perdendo forse anche un po', già iniziando un po' a perdere tempo, e cerca qualche compagno libero. Crisafulli va al rilancio lungo, vediamo al rilancio, la passa però sbaglia un po' il rilancio, un po' goffo. Il numero 7 la passa in mezzo, ma subito il compagno riesce a recuperare la palla, però un pallone perso e subito viene buttato via dalla difesa della Spada Forese. Rimessa lunga adesso da parte di compagno Mirko che la passa a Cicero, però Cicero non riesce a prendere bene la palla per recuperare il capitano del Spada Forese, ma attenzione, ancora uno sbaglio passaggio. Cicero prende la palla, cerca di sporcarsi al difensore, ce la fa, se la allunga forse un po' troppo e il numero 4 della Spada Forese, Scibillia Salvatore, ruba palla, però attenzione, sbaglia il passaggio sulla fascia, però la butta fuori per non rischiare altri pericoli. Va Geraci che la passa lascia il compito a compagno Francesco, compagno che cerca qualche compagno libero, la trova in Milia che però stoppa con la mano e viene fischiato il calcio di punizione a favore della Spada Forese. Il mister Pinutella si lamenta un po' con lo stop sbagliato del suo giocatore, cercando di rincuorarlo e soprattutto di spronarlo a fare il meglio. Attenzione in passe adesso offensiva la squadra forense, però con il numero 5 che sbaglia un po' il passaggio, ma riesce a recuperare il suo compagno di riparto. Ma attenzione, un passaggio sbagliato, intercetta Castiglione, ma perde palla. Attenzione, passaggio lungo subito, ma la difesa del Cefalù è ben attenta. Fiducia controlla facilmente e la palla si stoppa prima che finisca fuori. Va il rilancio lungo, ma attenzione, il rilancio è sbagliato, viene stoppato, ma viene il numero 6 Nania, butta, viene spinto a terra da D'Amico e conquista il calcio di punizione. Il calcio di punizione verrà battuto da Boemi. Boemi che chiede la distanza all'arbitro contraffatto. Vediamo, prendere la distanza, e va in barriera Cicero. Fiducia comanda la difesa, soprattutto di stare attento, e grida anche il signor Pino Minutella, cercando di comandare il svantaggio comunque in barriera D'Amico. Va il numero 3 Cibilia Salvatore alla battuta, una rincorsa breve, fa partire il cross in mezzo, il numero 9 Pedroni prova a cercare di testa, ma il passaggio, viene saltato un passaggio a compagno che la passa subito a Villafranca, però viene fermato da Campo che la mette fuori laterale. Compagno Francesco la passa a Geraci sulla fascia, però la butta fuori e viene assegnata la rimessa laterale per la squadra forese. Andrà la battuta a Boemi che cerca un compagno libero. Andiamo, Boemi va alla rimessa lunga, la stoppa la spada poi la ripassa di nuovo a Boemi, compagno, la rimette in avanti. Adesso c'è lo stop di Brocato che la passa lunga per Castiglione, ma Castiglione non riesce ad arrivare al pallone e regala la rimessa laterale a Spada Forese. Attenzione, subito lo scambio tra il giocatore della Spada Forese che la rimette in mezzo. Attenzione alla posizione offensiva, subito però la difesa dell'SD Cefalù che si chiude a riccio. Milia conquista un fallo abbastanza importante alla linea di centrocampo, dando così la possibilità della squadra di Cefalù di respirare un po'. Un Cefalù che comunque sembra per adesso un pochino sulla difensiva, ma è comunque normale visto che nelle prime partite il Cefalù all'inizio ha sempre dato un po' di spazio per poi accendersi nei minuti successivi. Attenzione però, la maniera difensiva, viene toccato il numero 10 Pedroni da D'Amico ed è data segnata il fallo per la Spada Forese. Va la battuta Scibillia Salvatore che vede che cerca qualche compagno libero. Va la battuta lunga che va sulla tre quarti, attenzione per un passaggio filtrante, la prende in due tempi Fiducia che riparte subito dando la palla a Brocato che cerca un compagno libero, pallone lungo sulla tre quarti per Cicero si smarca del difensore, l'arbitro però ferma tutto per un fallo da parte del difensore Boemi che chiama il fallo sulla tre quarti avversaria. L'arbitro però che per la battuta Geraci, però l'arbitro lo richiama per mettere un po' più lontano il pallone. Geraci passa però subito a compagno Francesco subito voleva fare l'1-2 con Villafranca, non riesce, la palla si spegne sul fallo laterale. Adesso andrà alla battuta del fallo laterale Campo che però trova un po' di difficoltà visto che gli attaccanti del Cefalù pressano alti. Cicero però ripassa palla per D'Amico però sbaglia il passaggio, però lo riesce a prendere Cane per Castiglione, ma Castiglione non capisce l'intenzione del compagno e la butta fuori. Attenzione alla Spada Forese in posizione difensiva, l'1-2 tra Boemi e Bella che adesso cerca di andare in avanti, ma c'è un fallo da parte di D'Amico che spinge l'avversario e così permette alla Spada Forese di respirare. Siamo ancora nella tre quarti del Spada Forese, adesso esce fuori il capitano della Spada Forese che la butta in mezzo, viene chiamato un fallo, vediamo a favore di chi? A favore della Spada Forese per la spinta di Cicero nei confronti del capitano di Scibillia Giovanni. Viene subito battuto lungo questo rilancio, Castiglione sbaglia l'aggancio, viene un cross in mezzo, subito il colpo di testa da parte di Pedroni, Fiducia con un tuffo plastico riesce a prendere il pallone, a buttarlo in calcio d'angolo. Pino Mentella però non è molto contento del suo centrocampista Castiglione, che ha sbagliato un po' troppo in questo momento. Fiducia ha fatto una parata incredibile che vale quasi un gol, tenuto il risultato sullo 0-0. Calcio d'angolo per lo Spada Forese. Vediamo se c'è lo schema, chiama tre uomini, c'è il gran mucchio al centrocampo, pallone in mezzo, c'è colpo di testa, il numero 3, e Scimili a Salvatore, e la palla si spegne a fil di palo. Ma che occasione sprecata per la Spada Forese, che comunque adesso ha veramente impensierito il Cefalù con due azioni veramente pericolose. Fiducia adesso con calma riposiziona la palla sull'area piccola e va subito al rilancio. Mister Minutella cerca di richiamare i suoi con una gran voce, adesso Fiducia va al rilancio lungo, la palla vola verso Geraci che però non salta, viene intercettato. Cicero, con la palla a centrocampo, la viene buttata a terra irregolarmente da Bella. Palla al centrocampo, andrà la battuta Cugino, cioè palla in mezzo subito per cercare Villafranca sulla fascia, cerca qualche compagno libero, D'Amico stoppa a centro, però viene bloccato subito la difesa della Spada Forese, che però per rilanciare butta la palla fuori. Adesso vediamo che la Spada Forese si sta riorganizzando, il Cefalù sembra un po' in bambole in questi primi minuti, viene però spinto a terra il giocatore della Spada Forese, Nania, e viene conquista un calcio di punizione vicino alla linea di centrocampo. Di nuovo la Spada Forese in attacco, però compagno, rilancio lungo, forse cerca l'assist a Cane non riesce a prendere la palla al volo, e la Spada Forese riesce a conquistare la palla, ma attenzione, re difensivo, Geraci per Villafranca che se ne va sulla fascia, la passa lunga per Cicero, però fermato per fuorigioco dall'assistente dell'arbitro, contraffatto. Calcio di munizione quindi per lo Spada Forese, che ha rischiato veramente molto, perché Cicero era mai a tu per tu contro il portiere. Attenzione Barri, lancio lungo la Spada Forese, la palla va sopra il centrocampo, compagno mio Francesco riesce a recuperare palla che però non riesce a prendere dopo il passaggio del difensore Castiglione. Rimessa laterale per il Cefalù, abbiamo visto male noi, rimessa del Cefalù, andrà Pino Brocato alla rimessa lunga, vedremo un po' se il suo compagno riuscirà a prendere palla cercata presa di Cicero, attenzione viene però recuperata Cane stop al volo, trova il tacco ma non riesce a trovare un giocatore, c'è forse un fallo ma nessuno nella la vede. Attenzione adesso in fase offensiva e la Spada Forese in attacco, subito la velocità dei giocatori giocatori di casa, pallone in mezzo, intercetta Mirko Compagno buttandola sulla rimessa laterale, andrà alla battuta a campo. Vediamo un po', mister Minutella molto innervosito dalla prima fase dei suoi giocatori, pallone in mezzo, ma l'arbitro cambia la partita, calcio per un fallo. Siamo al decimo minuto, ricordiamo il risultato, Spada Forese 0, ASD Cefalù Calcio 0, già due occasioni per la squadra di casa, il Cefalù che al momento sembra in bambola, però speriamo in una sveglia da parte dei giocatori. Attenzione ancora per la Spada Forese, la mette in mezzo per il 9, attenzione, però subito Fiducia in uscita sicura, blocca il pallone e richiama i suoi difensori che hanno lasciato una grandissima occasione a Pedroni, che si stava trovando a tu per tu con il portiere del Cefalù. Subito Fiducia all'inancio lungo, ma viene intercettato da Scibillia Giovanni e il pallone si spegne sulla rimessa laterale. Andrà alla battuta Pino Brocato, che sta cercando un compagno libero, adesso la palla va a Cicero a Brocato che la rimette un pallone lunghissimo, aspetta l'intervento del difensore, il portiere non esce quando ha rischiato moltissimo, attenzione adesso Mirko Compagno sulla fascia destra, Compagno ancora, cerca un difensore, cerca il suo compagno, lo trova in Geraci sulla fascia laterale, adesso di nuovo a Villafranca in mezzo per D'Amico, attenzione D'Amico cerca di innestare Geraci stoppa la palla prima del limite della linea dei fuori, però non riesce a controllare e la palla si spegne, nulla di fatto. subito rimessa lunga da parte del portiere che la passa sulla fascia a Sofia Francesco, che però sbaglia la rimessa di nuovo per il Cefalù, che però non riesce a concretizzare l'arresto della palla, ritorna nelle tre quarti del Spada Forese. C'è però un fallo su D'Amico, l'arbitro non se ne ravvede, D'Amico è a terra, chiede forse l'aiuto del medico del Cefalù, che però dopo un fallo abbastanza evidente, non che riusciamo a capire come l'arbitro contraffatto non ha visto, e adesso D'Amico è a terra con l'arbitro che sta parlando dicendo che non ha visto il fallo. Vediamo un po', il pallone è stato comunque sia mandato fuori, adesso c'è Villafranca che si abbeverà un po' come anche cane, perché c'è veramente molto caldo quest'oggi, è un vento che, come ho detto in precedenza, inizio partita, potrebbe dare molto molto fastidio ai giocatori. Attenzione, subito la riprende la partita, campo, la manda lunghissima, però è facile presa di Pino Brocato per Mirko Compagno, ma viene intercettata la palla da centrocampo, ma viene poi buttata via da Compagno. Cane per Cicero che si smarca, la passa a Geraci, sulla fascia Geraci cerca di un compagno, ma la palla viene poi spedita fuori da Boemi. Pallone rimesso subito lunghissimo per Cicero che la mette in mezzo, ma non, il pallone è troppo lungo, impossibile da prendere per nessuno dei compagni. Dalla rimessa del fondo Scibillia Salvatore che la ripassa a Boemi di nuovo Scibillia Salvatore, la mette però che la butta fuori alla rimessa laterale. Andrà D'Amico, D'Amico, adesso la rimessa laterale per la Spada Forese, subito rimessa lunga però preda di Schicchi, però vedremo, secondo noi c'era stato un tocco di mani non fissato dall'arbitro, adesso è rimessa laterale per la Spada Forese. Gli azzurri di casa cercano subito di portarsi in avanti con una rimessa lunga, ma è subito presa di Pino Procato che la passa a Pedroni ha la spada, di nuovo però viene atterrato da Schicchi, il fallo però ci è sembrato inesistente, ma sarà calcio di punizione quasi vicino all'area di rigore da parte per la Spada Forese. Subito Fiducia chiama la barriera a 2, vedremo un po' le evoluzioni di questo calcio di punizione. L'arbitro chiama la distanza, vediamo un po', subito un gran mucchio, ci sono già 4 giocatori della Spada Forese presenti in area, nel frattempo l'unico invece, tutti i giocatori del Cefalù sono nell'area di casa, con l'unico punta Cane che è nella tre quarti. Attenzione al calcio di punizione, batte Pedroni che la passa però, attenzione a Scibillia Salvatore che la mette in mezzo, il tiro da parte di Nania, soltanto che la palla si spegne fuori sul dopo che l'attaccante si è rotto a tu per tu con Fiducia, ma l'azione era stata già interrotta in precedenza per fuorigioco. Fiducia con calma va a prendere il pallone e a posizionarlo per il calcio di rinvio. Comunque sia già la terza occasione molto ghiotta per gli ospiti di casa, per i padroni di casa, con il Cefalù che ancora non è riuscito a concretizzare. Il pallone però c'è molto vento, quindi il pallone va avanti, Fiducia lo sistema in modo da rilanciare lungo, il pallone va verso il centrocampo, ma attenzione a Geraci che si fa anticipare dalla Spada. La Spada subito che va in attacco, però si ferma, cerca un suo compagno, pallone lungo per Pino però viene fermato da Schicchi e l'arbitro chiama un calcio di punizione. Al momento sembra che comunque i padroni di casa stiano giocando nettamente meglio nei confronti del Cefalù. La partita comunque sia al momento ricordiamo il risultato, è ancora 0-0 tra Spada Forese e ASD Cefalù Calcio. Adesso calcio di punizione quasi dalla tre quarti, in posizione un po' decentrata. L'arbitro richiama la distanza, però parla un attimo con compagno Francesco. Vengono richiamate i due difensori centrali della squadra. Vediamo adesso la distanza è bene, tre uomini in barriera con uno di disturbo Vediamo chi andrà, sono ben 4 gli uomini sul pallone della Spada Forese. Vediamo. Ma attenzione, l'arbitro fischia. Fa partire il tiro, la spada, ma il pallone si va a concludere alto sopra la traversa. Questo è il quarto tiro già della Spada Forese, che sembra veramente in vantaggio fisico in questo momento nei confronti del Cefalù. Fiducia va, rilancio lungo, palla per Castiglione che di tacco la cerca di passare, ma un errore molto brutto. Attenzione alla Spada Forese, passaggio lungo per la spada palla per Rania che però tira, ma viene ribattuto su un difensore, Cane sul centrocampo, lancio lunghissimo per Cicero cerca di stoppare il pallone, ma viene attenzione, c'è un fallo sul portiere che adesso si accascia in terra in maniera un pochino goffa. Ad un certo punto rischiamo subito l'azione, c'è il Cane innesta a Cicero che cerca subito il tiro, il portiere lo va ad anticipare molto goffamente, soltanto che perde così la palla al limite dell'area, rischiando anche l'espulsione, poi vedendo che non riuscendo più a trovare la palla si è buttata a terra. Sinceramente mi è parsa nettamente una simulazione molto goffa, però l'arbitro ha chiamato il calcio di punizione. Adesso i medici si avvicinano al portiere Crisafulli per vedere le sue condizioni. Nel frattempo i giocatori della SD Cefalù ne approfittano per rinfrescarsi. È una giornata molto calda quest'oggi, molta anche l'umidità, e vediamo anche che veramente c'è veramente molto molto caldo. Adesso l'azione, per adesso la partita è stata interrotta proprio per il fallo su Crisafulli. Siamo al ventesimo, ancora risulta il presentato è bloccato sullo 0-0. Il portiere ora si rialza, l'arbitro chiama un po' la calma tra i giocatori, ma ripetiamo, il fallo non ci è sembrato così netto, e adesso Crisafulli si prepara al calcio di punizione. Crisafulli, l'arbitro fischia e Crisafulli può battere il calcio di punizione. Crisafulli adesso la mette, no, sistema nuovamente la palla, perdendo anche abbastanza molto tempo, e va al rilancio lungo, però non molto preciso, il palla stoppata adesso subito in una posizione offensiva, la spada per Nani, di nuovo la spada a centrocampo, ma con sicurezza Geraci stoppa la palla e la passa a Pino Brocato sulla fascia, Castiglione va di nuovo in mezzo per l'amico, che però viene atterrato in maniera irregolare da Nania e viene fissato il calcio di punizione sulla linea di centrocampo. Subito Geraci la posizione, chiamando i suoi di andare avanti, però è rimasto al momento a terra D'Amico. L'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. Subito attenzione Geraci palla lunga a Cicero, però si sbarca il portiere, l'arbitro chiama un fallo inesistente perché Cicero se n'era andato via, il difensore si era leggermente abbassato, ma l'arbitro ha chiamato comunque sia il fallo senza ci fosse stato nessun contatto. Attenzione a Bella che la passa lunga a Pedroni nella linea di centrocampo, va avanti, ma l'arbitro fischia. Vediamo quello che succede, forse è stato chiamato un fallo a favore dell'SD Cefalù Calcio, sì è così, è stato spinto fino a bloccato da Boemi e il Cefalù soffrirà di un calcio di punizione dalla propria tre quarti. Andrà la battuta Francesco Compagno che va a cercare subito in avanti i suoi compagno lunghissimo per Castiglione, però viene atterrato, la Castiglione la prova a passare a Cicero, ma viene atterrato, l'arbitro non fischia, attenzione al contropiede della Spada Forese, bloccato da Geraci a centrocampo, passa la palla a Pino Brocato nuovamente, però si riesce a liberare di un attaccante, però l'arbitro chiama il fallo su Pino Brocato che era stato spinto da Scibillia Giovanni. Va la battuta Geraci per Cicero se ne smarca di due, ma viene colpito pesantemente, l'arbitro però fischia fuori il contropiede della Spada Forese, sbaglio il passaggio però lungo per Pino ancora lui, Pino contro Schicchi però lo ferma, Pino si mette a terra per passarla, riesce a passarla, passò il passaggio in centro, attenzione lungo però per tutti, Compagno controlla la palla e la passa a Villafranca con un ottimo sombrero riesce a smarcarsi e su la mette in aria, la mette sul centrocampo dove Cane però non riesce a conquistare palla, ancora Compagno Francesco che rimette di testa in aria e E attenzione però che la squadra forense riconquista la palla, però di ritorno D'Amico la prende, attenzione se il contropiede del Ciavolù, cane per Cicero, Cicero che si allunga sulla fascia, Cicero può no, forse non ci arriva più, però viene spinto in maniera veramente fallosa contro la ringhiera e l'arbitro nuovamente non fischia il calcio di punizione, veramente un po' l'arbitro dovrebbe aprire gli occhi perché questo era un fallo netto, spinta addirittura nei confronti della ringhiera, si sarebbe potuto anche fare male l'attaccante del Ciavolù. Posizione adesso siamo alla linea di centrocampo con Campo che cerca di innescare Pino, ma l'arbitro è troppo lungo. Pino si arrabbia moltissimo con l'arbitro per l'errore, infatti la panchina si arrabbia moltissimo per gli errori arbitrali, infatti il fallo era molto netto, ma l'arbitro ha deciso di non fischiare e tenere la palla in gioco. Subito fiducia, palla lunga per Cane, però che non riesce a conquistare palla. Pino Brocato prende palla, la passa adesso a Castiglione, Castiglione viene anticipato da Campo, attenzione però il Ciavolù riesce a recuperare palla, Castiglione pallone troppo alto, la rimessa laterale sarà per la squadra forense. Siamo al 23esimo, il risultato ancora fermo sullo 0-0 e ricordiamo che la squadra forense è andata vicinissima al vantaggio prima col tiro di la spada su Fiducia che è parato con una bellissima tuffo plastico, è riuscito a prendere il pallone e toglierlo dalla rete e successivamente su un calcio di punizione col tiro di seconda da parte di Pedroni con la palla che si è andata a spegnere sul fondo. Adesso c'è un calcio di punizione per la spada forese, andrà la battuta Boemi per un fallo in precedenza di Geraci. Siamo alla linea di centrocampo, vediamo Boemi che si posiziona la palla, l'arbitro fischia però e va a richiamare qualche giocatore, c'è un po' di nervosismo momento in campo. Attenzione, la palla va a Boemi, Boemi la passa lunga per nessuno, c'è Fiducia che quindi controlla con tranquillità, molto sicuro Fiducia che blocca la palla, adesso chiama i suoi ad andare in avanti, Fiducia va al rilancio con i piedi, la palla va a superare il centrocampo, pallone per Cicero che però non riesce a capirlo, Boemi conquista palla, Boemi sulla fascia viene infastidito da Cicero e l'arbitro adesso al momento chiama il fallo, attenzione a Geraci che rischia veramente grosso perché si è andato a lamentare con l'arbitro, l'arbitro gli ricorda che è lui che deve fischiare, quindi fallo per la spada forese. Molto molto dubbio questo fallo perché alla fine Cicero aveva soltanto leggermente spinto il difensore. Ricordiamo comunque minuto e punteggio, siamo al 25esimo, SDC Blu Calcio 0, Spada Forese 0. Adesso va la Boemi, la passa a centrocampo a Scibilia Salvatore, Salvatore che se ne va su Villafranca, Scibilia la passa lunga per Campo però viene, la lascia per la palla alla spada, attenzione ai tre quarti, viene chiamata nell'ennesimo calcio di punizione. Dopo la spinta di Mirko Compagno, l'arbitro subito ha chiamato il calcio di punizione. Siamo vicinissimi all'area di rigore di Fiducia. L'arbitro chiama la distanza e dice fischio io. Ci saranno due gli uomini in barriera e saranno Castiglione e Villafranca. Il difensore Scibillia si sistema la palla. Nel frattempo un gran mucchio di in aria, attenzione Scibillia la mette in mezzo lunga, la palla che va vicinissima all'incrocio ma si spegne fuori con Fiducia che controlla. Ricordiamo il risultato 0-0 al 26esimo tra Spada Forese e SD Ciavolù Calcio. Il mister Nutella non sembra affatto contento al momento di questi primi 26 minuti della sua squadra, al momento, anche se dobbiamo dire che alcune scelte arbitrali sono state molto discutibili, al momento sono stati veramente fischiati pochi falli nei confronti dei nostri giocatori, invece per la squadra alcuni falli forse inesistenti. Allora Fiducia, la manta lunga per Cicero, però che viene intercettato, Pino Brocato che la prende sulla linea laterale che però sbaglia il rilancio e la butta in fallo laterale. Campo va a prendere e la passa a Nani che però viene bloccato da compagno che poi la va a prendere Cicero ma viene fischiato il fuori, aveva controllato forse male la palla. adesso la squadra forense in attacco, il Scibillia la passa a Giovanni, però la passa poi alla Spada, che però viene beccato in offside. Calcio di punizione per la SD Cefalù Calcio, andrà alla battuta Fiducia, che cerca di dare una svegliata ai suoi ragazzi e chiama adesso di andare anche in avanti. Vediamo che la squadra si sta posizionando e Fiducia va a rilancio lungo, palla per Castiglione che però non prende la palla, la prende però Nania, che però la butta fuori. Palla adesso nuovamente per Cicero, Cicero la cerca di bloccare ma viene buttata fuori da Boemi, che per non rischiare qualcosa di peggio la butta in palla laterale. Brocato cerca qualche compagno libero, lo trova in Cane, Cane che però viene attaccato pesantemente da Spada, Cane nuovamente riesce a prendere la palla, la mette in mezzo ed c'è un fallo di Mani, fallo di Mani, calcio di rigore per l'SD Cefalù Calcio, calcio di rigore per l'SD Cefalù Calcio, mano di Boemi e sarà calcio di rigore. Sembra che l'arbitro si stia avvicinando con un cartellino, c'è una grandissima discussione in aria, vediamo quello che succede, tutti discutono al momento col guardaline che ha dato la mano all'arbitro per ravvisare questo calcio di rigore. Il Cefalù ha la possibilità di andare in vantaggio, siamo al 27esimo, Cefalù quindi può usufruire del calcio di rigore, adesso vedremo chi andrà alla battuta. C'è grande confusione al momento attorno al guardaline, vediamo adesso che l'arbitro ha estratto il cartellino giallo, lo riusciamo per adesso a vedere nei confronti di chi. Quindi calcio di rigore per la ST Cefalù Calcio, che ha la possibilità di andare in vantaggio. Vediamo adesso chi andrà alla battuta, andrà Paolo Villafranca, Villafranca sul calcio, per il calcio di rigore, Villafranca contro Cristo Pulli. Adesso l'arbitro a fatica ancora cerca di mandare fuori i giocatori del Spada Forense che ancora si lamentano. Adesso parte Villafranca, l'arbitro fischia, Villafranca va al tiro, Paolo Villafranca spiazza Cristo Pulli con un ottimo piatto sulla destra del portiere, il portiere ha intuito ma Paolo Villafranca è stato più forte di lui e siamo sul risultato di 1-0 grazie, ritorniamo al calcio di rigore di Paolo Villafranca, risultato siamo al 28esimo, a SD Cefalù Calcio 1 palla per il 0, vieni allo studio. Sono le 16:11. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria e gioielleria Danna Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. CRM Notizie. Ben trovati all'ascolto. Proseguirà il 2 ottobre il processo del Tribunale Vaticano a Paolo Gabriele, ex maggiordomo del Papa. Lo ha deciso stamane la prima udienza del processo contro l'uomo accusato di aver trafugato carte riservate del pontefice. Padre Georg, segretario di Benedetto XVI, sarà ascoltato come teste. Stralciata invece la posizione di Claudio Sciarpelletti, altro dipendente vaticano accusato di favoreggiamento. Sono ottimista, siamo vicini alla meta. Il ministro della giustizia Severino giudica così lo stato dei lavori del provvedimento anticorruzione. La legge è nuovamente sotto i riflettori dopo le ultime inchieste sulle spese fuori controllo delle regioni. Sui costi della politica, ha aggiunto, bisogna rafforzare i controlli. Proseguono gli accertamenti della Guardia di Finanza negli uffici della Regione Piemonte. Si indaga sui rimborsi ai consiglieri, in particolare su 600.000 euro ottenuti grazie ad autocertificazione. A Roma sale a 3 il numero degli indagati per il cosiddetto Lazio Gate. Oltre all'ex capogruppo del PDL Fiorito, indagati anche due suoi collaboratori. Il sud della Spagna sotto le piogge torrenziali con un bilancio provvisorio di 10 morti, compresa una bambina di 9 anni. Centinaia le famiglie evacuate nella provincia di Malaga, inondazioni a Cadice. A Siviglia e Granada disagi nei trasporti ferroviari, aerei e su strada. Chiuso il porto di Valencia. Si infiamma il motomondiale che domani fa tappa in Spagna con il Gran Premio d'Aragona. Nella classe MotoGP partirà in pole position il leader iridato Jorge Lorenzo davanti al connazionale Dani Pedrosa, secondo in classifica a meno 38 dal rivale. Sesto tempo per Dovizioso, ottavo Valentino Rossi. Questa edizione termina qui, appuntamento a più tardi. CLM. Cefalù Radio Madonie, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora denominata CRM per Radio, informa che intende diffondere messaggi politici gratuiti a pagamento per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia fissate per il 28 e 29 ottobre. A tal fine informa che sul sito www.crmapiredo.it è presso la propria sede ubicata in Cefalù via San Vito numero 8, telefono 0921 423 456, fax 0921 92 32 89, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici gratuiti e a pagamento, con indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate da Cefalù Radio Madonie, CRM e Pirradio. Ogni ulteriore circostanza ed elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. CRM. Pubblicità. Peugeot a Cefalù con AICA. AICA, concessionaria Fiat, Lancia, Fiat Professional e Peugeot. La trovi in via Roma 9193 a Cefalù. Vieni a visionare il nostro showroom Peugeot e scoprirne la nuovissima gamma, tra cui la bellissima 3008 o lo sportivissimo coupé RCZ. Potrai richiedere un preventivo gratuito. Inoltre, se possiedi una vettura da rottamare, tra le nostre numerose offerte potresti trovare quella giusta per te. Ti aspettiamo in via Roma 9193 a Cefalù, telefono 0921 42 11 55 o visita il nostro sito www.aicasrl.it. Un ambiente di grande fascino e ricco di atmosfera, dove gustare la genuinità di sapori raffinati e prelibati. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia, per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare, per i buon gustai che pretendono il meglio. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info, 0921 42 38 01. La forza di un team vincente. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 34 56. CRM Sport. Bentornati amici radioascoltatori a questa partita per valevole per la quarta parte, per la quarta giornata di promozione tra Spada Forese e ASD Cefalù. Il Cefalù è andato poc'anzi in vantaggio al 30° con gol su calcio di rigore di Villafranca, dopo un tocco di mano abbastanza dubbio, a noi sinceramente non ci è sembrato, però da parte del difensore Scibillia Salvatore, che è stato pure ammonito per il fallo. In questi minuti in cui non siamo stati collegati, non c'è stato nulla da segnalare, a parte un calcio d'angolo spento però fuori per la Spada Forese. Adesso il pallone è nella linea difensiva dell'SD Cefalù Calcio, con un errore, attenzione però, con Schicchi che recupera palla, viene buttata a terra D'Amico la passa a Geraci per Villafranca che subito va a scattare, si toglie per 1-2 con Cicero sulla rimessa laterale, Villafranca va verso la bandierina, Villafranca ancora lui infermato, no, cerca il cross in mezzo ma non riesce a calibrarlo bene, si spegne sul fallo di fondo. Va Crisa Fulli per Boemi, cerca qualche compagno libero, lo trova in Nania di nuovo per Campo che cerca di mettere il pallone in avanti, però c'è Pino Brocato che la manda in fallo laterale con sicurezza. Ricordiamo ancora il risultato per chi si fosse collegato in questo momento: il Cefalù è andato in vantaggio su grazie a un calcio di rigore segnato da Villafranca al 31° del primo tempo. Attenzione, c'è subito il posizione difensivo, Cicero che pressa alto di nuovamente Villafranca, però viene rilanciato lungo, compagno prende il rilancio ma non che butta fuori cercando Villafranca ma non riesce a prendere il pallone. Va Campo la passa a Pedroni che però viene contrastato da Cicero, però va subito in linea difensiva, attenzione al Spada Forese che va in avanti, però c'è Pino Brocato che controlla con sicurezza e la manda lunga per Cane la manda, cerca di innescare Cicero, i due però non si capiscono e la palla finisce in fallo laterale per la Spada Forese. Va la battuta Campo che va a prendere Scibillia Salvatore, che la passa a Nania. Nania sulla fascia sinistra, cerca di metterla in mezzo per Pino. Pino però viene fermato da Schicchi. Schicchi adesso la passiamo, siamo a centrocampo con D'Amico che però non controlla la palla, però è errore di Castiglione che non è andato incontro al giocatore. Attenzione però, un errore difensivo di Schicchi. Schicchi, attenzione a Pino. Pino la mette in mezzo, cerca di metterla in mezzo, ma con un intervento da fuori classe da parte di Brocato la butta fuori e sarà calcio d'angolo per la squadra forese. Siamo al 35esimo minuto del primo tempo, risultato sul 1-0 per il Cefalù Calcio, e la squadra forese ha un'opportunità di pareggiare la partita su un calcio per un calcio d'angolo. Andrà Pino alla battuta, gran mucchio in fase difensiva con le due punte, però Cane e Cisolo che rimangono sulla tre quarti offensivi. La manifestazione però subito per pallone corto, viene mandato via, attenzione subito, parte il contropiede del Cefalù, Cefalù subito con Cicero, Cicero per Castiglione, la manda lunghissima, sta cercando di prendere compagno, Francesco però viene intercettato da parte da Scibilia Salvatore e la palla si spegne in un nulla di fatto. Adesso la squadra forese a controllare, però Castiglione finalmente si è svegliato, anticipa il difensore, D'Amico la cambia fronte passando la Villafranca adesso per Cane che stoppa la palla, cerca Mirko Compagno che però la palla è troppo lunga e si spegne in un nulla di fatto sul fallo laterale con il signor Pino Minutella, non molto contento di questa azione da parte dei suoi. Attenzione, subito siamo qua davanti, Geraci che però si libera di Pino, viene Pino, si libera di Geraci, attenzione Schicchi che va al controllo del difensore, c'è Fiducia che però blocca, ma ottimo lavoro di Schicchi che non permette all'attaccante di concretizzare l'azione e andare in avanti. Allora subito Fiducia la passa lateralmente a Villafranca, però viene intercettato da Nani, attenzione a Pino la ripassa indietro a Campo che cerca in attacco, attenzione colpo di testa da parte di Nania, ma cercando di liberare la spada, ma Fiducia sempre allerta blocca la palla. Fiducia adesso rilancio lungo a cercare Castiglione. Castiglione però non recupera la palla, di subito la nuova posizione offensiva da parte di La Spada che però non riesce a raccogliere l'assist troppo lungo da parte di Pino e la palla si spegne in un nulla di fatto. Schicchi la lancia lunga per Cicero, c'è un fallo netto con spinta da parte del difensore Boemi, ma l'arbitro non lo ravvede. Adesso però il Cefalù decide di controllare la palla e invece di cercare una controffensiva, Fiducia recupera la palla, la passa adesso lunga, però c'è un errore da parte di Fiducia, attenzione si muove il contropiede, ma subito Compagno blocca la palla, c'è Pino Minutella che è molto arrabbiato col suo portiere per un rilancio abbastanza sbagliato. Attenzione subito la posizione offensiva da parte del Cefalù Calcio, adesso subito Schicchi la manda lunga per Cicero, ma non riesce a recuperare la palla. Pino Minutella molto arrabbiato con il suo allenatore, col suo portiere per un errore dal rilancio lungo che avrebbe potuto innescare una posizione offensiva da parte della squadra forense. Siamo al 36esimo del primo tempo, risultato sbloccato al 30esimo da Villafranca sul calcio di rigore, quindi l'SD Cefalù Calcio è in vantaggio per 1-0. Adesso c'è la rimessa laterale a favore della Spada Forese con Scibilia Salvatore che va a prendere il pallone che addirittura è andato verso la rimessa laterale propria. Cerca qualche giocatore libero, lo trova in Pino subito per cerca la spada adesso che riesce a recuperare palla, la passa poi a Nani che proprio Nani, poi subito Villafranca riesce a liberarsi dal difensore ma viene preso dalle spalle dal numero 7 della squadra avversaria, Bella che però la manda in avanti, però viene intercettato da Geraci però cercando subito il passaggio lungo per Cane la butta fuori. Subito attenzione alla squadra forense che comunque sta giocando abbastanza bene, attenzione c'è addirittura due uomini su Geraci, addirittura la scivolata di Pedroni, la palla però l'arbitro giustamente chiama un calcio di punizione e sono al limite, sono vicinissimi alla linea destra della linea di centrocampo. subito Geraci cerca qualche compagno libero, la linea difensiva comunque rimane a 4, rimane molto basso. Geraci subito la passa lunghissima per Castiglione, ma la palla è troppo alta, Castiglione non riesce a recuperare, a prendere il pallone e la palla si spinge e si spegne sul fallo di Sotto. Crisafulli la passa a Scibillia che cerca qualche compagno, nel frattempo si sta riscaldando il numero 14 della Spada Forese, Milazzo. Rimessa laterale per il per la Spada Forese, Pino cerca di innescare il difensore, ma subito Schicchi sveglio, la passa a Geraci, D'Amico la passa lunghissima per Villafranca, che solo, attenzione, può vedere il cane che è già scattato, però aspetta un po' troppo e la passa a Mirko compagno di nuovo per Villafranca, 1-2 tra i due, compagno Mirko la sblocca sulla limite, però viene spinta a terra dall'arbitro e finalmente, no, addirittura chiama un fallo a favore della Spada Forese, un pochino, molto dubbio, attenzione, cioè, però il fuorigioco da parte di Pino, l'arbitro, il guardaline era in ritardo, non è ravvisato, però Pino sportivamente si è fermato lasciando che la palla finisse fuori. Adesso andrà a compagno Francesco la rilancio lungo, la palla va a Castiglione, Geraci la manda lunga per Cane che però viene anticipato, c'è anche un tocco di mano, ma Cane viene subito fermato in modo irregolare, l'arbitro fischia il fallo a Sabatone Cane e comanda un calcio di punizione vicino alla linea di centrocampo. Subito la squadra sale, centrocampista, e soprattutto vediamo anche salire il difensore Mirko compagno. Attenzione, l'arbitro adesso comanda la distanza, subito Geraci la mette in mezzo, la spizza di testa a campo, bloccato da che però la manda in fallo laterale, Mirko compagno non ha voluto rischiare. Attenzione, Villafranca la passa subito a Geraci in mezzo di nuovo, Cicero di testa, la palla però viene spizzata in malo modo, cioè addirittura è tornato in difesa alla Spada per cercare di prendere la palla, riesce anche a recuperarla, adesso la passa a Scibillia per Boemi, ma la palla finisce fuori, viene fischiato, la palla viene fischiato un calcio di punizione per fuorigioco. Vediamo adesso chi campo cerca Boemi, subito palla lunga per Boemi, ma bloccato, stop di testa, la passa poi a Geraci per Cicero, però viene anticipato Pino per la Spada, viene fischiato l'ennesimo calcio di punizione per la Spada Forese. Non vorrei dire, ma al momento comunque l'arbitro sembra che ha fischiato un po' troppi falli per la squadra ospite. Per noi comunque, attenzione però Cane riesce a intercettare il pallone, ma spegne nulla di fatto, attenzione Cicero con il fisico, di nuovo D'Amico però da terra viene steso da Boemi, un fallo abbastanza netto che secondo noi poteva essere punito anche dal cartellino giallo, visto che ormai D'Amico aveva superato il suo diretto avversario e da terra Boemi lo ha toccato col piede. Cosimazione è battuto subito da Ciccio compagno che cerca Villafranca, lo trova Villafranca in palleggio, ma c'è una gamba tesa, ma l'arbitro non la vede. Finisce il primo tempo di questa partita. La Spada Forese sta perdendo in casa contro la SD Cefalù Calcio al 30° Villafranca su calcio di rigore. E al momento per questo primo tempo è tutto, linea allo studio. CRM. Pubblicità.